che mi fa sentire ancora vivo, e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Dentro un libro che nessuno ha scritto mai, leggo le istruzioni della vita, anche se so che poi non le seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà. Come te, yeah. Nelle pagine lasciate in bianco noi, diamo spazio a tutti i nostri sogni. Nessuno mai il futuro ruberà dalle nostre mani. Oltre le distanze noi non siamo soli, senza più certezza e verità, anime confuse, cuori prigionieri, con la stessa idea di libertà. Noi non siamo soli, l'incertezza non ci fermerà.